Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io sto chiamando perché vorrei segnalare la situazione di mia figlia, che ha una disabilità importante, sorda e sordomuta, a seguito di una meningoencefalite, e oltre a questa, appunto, disabilità cognitiva, ha anche una difficoltà di deambulazione che fortunatamente sta evolvendo in maniera positiva, ma ancora oggi la bambina non è autonoma. L'INPS e le commissioni mediche le riconoscono l'handicap, ma di fatto non le riconoscono la disabilità. Faccio solo un esempio: per avere il tesserino per il parcheggio della macchina abbiamo dovuto aspettare un anno, e poi comunque ci sono sempre mille difficoltà per queste commissioni mediche, queste revisioni che a volte vengono fatte. Sembrerà anche 70. Semplicemente l'enumerazione di banali operazioni burocratiche da fare. Questo è un messaggio che ci ha mandato un ascoltatore rispondendo all'appello che abbiamo fatto a Radio 24 ormai da qualche mese, di chiamarci anche noi disabili, quindi cercare di usare una maniera di ascolto delle persone che hanno un problema di disabilità da gestire in famiglia, proprio come se esattamente l'avessimo anche noi questo problema. Poi che chi parla ce l'abbia veramente è un'altra situazione, nel senso che tutti i colleghi di Radio 24 nei loro programmi, nelle loro trasmissioni, nei giornali cercano per quanto possibile di dare consistenza a questa che non era soltanto una promessa fatta tanto per fare, è un impegno che stiamo portando avanti, che costa fatica, che costa attenzione, ma lo stiamo facendo molto volentieri. Avete sentito? Non sono quelle cose che riempiono i titoli dei giornali, che danno corpo a storie miserevoli, drammatiche, terribili, che abbiamo anche trattato, dei ragazzi presi a calci in bocca negli istituti per disabili. Ma sono quelle storie che rappresentano la vera traccia dolorosa del quotidiano delle famiglie che gestiscono il problema. L'impossibilità, la difficoltà di rompere il muro della burocrazia anche per avere un semplice permesso che fa parte dei diritti che ha una famiglia con disabili. La burocrazia che sembra delle volte muta, schiava delle liturgie, schiava delle ritualità, e non attenta a quelli che sono i problemi delle persone che tra i cittadini sono quelli più deboli, quelli con più problemi. Beh, noi continueremo con questo impegno tra poco. 800 24 00 24, chiamate se avete anche voi storie simili a quella del signore che ha parlato poc'anzi. Saremo pronti ad ascoltarvi. A tra poco. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Melog, cronache meridiane. Otto zero zero ventiquattro zero zero ventiquattro. Mi rendo conto che per la maggior parte di chi ci ascolta queste non sono puntate che fanno sorridere, fanno ridere, aguzzano il cervello per trovare la maniera di intervenire in trasmissione con contributi efficaci, originali, che in fondo è il miglior rapporto che ho mai stabilito con un pubblico radiofonico, quello di potermi delle volte appoggiare alle esperienze di chi mi ascolta e farne materia palpitante. Molte volte gli ascoltatori sono per me la fonte primaria di informazione. Parto con un'idea, con un dubbio, con una perplessità e trovo via via conferma in veri esperti che mi ascoltano e portano il loro contributo. Molte volte per fare una trasmissione occorre una ricerca difficoltosa, attenta, degli esperti da consultare. Molte volte noi ci affidiamo e ce ne prendiamo tutta la responsabilità alla deriva di considerare esperti potenziali le persone che vivono un problema e che ci ascoltano. E nessun caso è più calzante che quello appunto di dover gestire una disabilità. Nessuno è più esperto di chi la gestisce e di chi la conosce. Abbiamo spesso chiamato rappresentanti di associazioni, rappresentanti di istituti, rappresentanti di opere benefiche, ma nessuno può raccontarla come chi la vive sulla propria pelle. Maria Cristiana, buongiorno. Buongiorno, sono in linea. Eh sì, se io le dico buongiorno, okay, grazie. La stanno ascoltando, no, scusi, tutti. Perché io sento solo tramite telefono, quindi ovviamente parliamo in diretta. Salve, saluto tutti. Prima di tutto vi ringrazio enormemente per interessarvi a questo problema, che come giustamente lei ha detto è un problema che deve essere vissuto come un discorso generale, proprio come un fatto etico dello Stato, della persona, di tutti quanti. I disabili non sono persone diverse. Io sono la mamma di un ragazzo down, affetto da trisomia 21. Quanti anni ha suo figlio? Mio figlio ha 37 anni. Grande, grande, un ragazzone, quindi, è un adulto. È un ragazzone, devo dire, non da madre, ma da persona, e oltretutto io ho avuto la fortuna, per il lavoro che ho fatto, di occuparmi di queste problematiche. Un ragazzo stupendo e, come posso dire, bello da conoscere anche per gli altri. Ecco, ma che fa suo figlio? Suo figlio che fa? Mio figlio frequenta, fortunatissimamente anche questo ci è capitato, una cooperativa ad Arcore, dove viviamo, ed è una cooperativa che tratta si occupa, intrattiene, aiuta, collabora e fa collaborare ragazzi cosiddetti disabili. Quindi è una rappresentazione, comunque non sono delle vite da considerare, da dover tenere da parte, mettere in dei circoli ristretti. Ma tutt'altro. Suo figlio fa una vita, anzi, attiva, ha un lavoro, ha una sua vita soddisfacente, dignitosa, penso anche felice, visto che c'è chi pensa lui a lui. Lui sì, anche perché fortunatamente diciamo che la particolarità di questi ragazzi, in particolare i ragazzi down, è proprio questa: la grande sensibilità, il partire sempre in positivo. E poi la società, siamo noi che li chiamo, che li vediamo come diversi, che li vediamo come strani. E tra parentesi, loro, essendo ipersensibili, con un'intelligenza, io dico, diversa dalla nostra, capiscono lì dove c'è il negativo. E allora, questo abbiamo detto, però andiamo, noi oggi vogliamo parlare di problemi pratici. Potrei sì, essere a chiacchierare allora, fino a domani con lei, concreto, se è d'accordo. Lei già è in una situazione... Lo diciamo oggettivamente, rispetto alla stragrande parte delle famiglie che in Italia gestiscono un ragazzo con disabilità, è una situazione difficoltosa, faticosa. Immagino la sua vita non sarà una vita comparabile con la vita di chi ha un figlio di 37 anni, no. Con tutti i problemi che può avere oggi un 37enne, ancora problemi del lavoro. Carità, però diciamo, comunque, diciamo che in parte ce l'ha fatta. Suo figlio esce... anche perché ci vuole, e questo lo consiglio a tutti i genitori. Guardate questo come una prova per voi, ce la farete, se ce la mettete tutta, credete, abbiate forza, perché questi ragazzi vi danno forza. E volevo quindi raccontare poi il quotidiano a cui siamo arrivati oggi, perché il quotidiano di ieri era quello delle scuole, era quello del contatto con gli altri, ma adesso interessa che tutto sommato è un bel periodo, con tutte le difficoltà ci sono, perlomeno uno ha una routine quotidiana. Con tutte le battaglie possono essere fatte, da seguire, va a scuola, poi uno combatterà per i sostegni, combatterà con le insegnanti, va a scuola intanto. Non so, sì, però anche lì ci sono tante cose pesanti, ma non lo dobbiamo dire in questo momento, quindi però, si attenga alla sua esperienza. Suo figlio ha 37 anni, è un uomo, esatto, quindi quali esatto. sono i problemi che può avere un uomo, allora, con delle difficoltà? Mio figlio, appunto, essendo un ragazzo molto attivo, fortunatamente ha tanti amici, i nostri parenti, quindi miei nipoti, fratello, sorella, amici, un clan in effetti, no? In cui lui è inserito perfettamente. E vuol dire che ha lavorato bene, non l'ha lasciato soltanto nello stretto circolo dei suoi amici. Mai. Perciò, quindi esce con altri ragazzi. Sarà probabilmente un elemento di arricchimento nella compagnia. Se lo portano con loro, che gli piace. Beh, è la scelta migliore. Un gruppo di ragazzi intelligenti sa che se si porta dietro un ragazzo con delle difficoltà diventa per loro un elemento di arricchimento, è anche interessante, divertente, lo so perché l'ho visto nell'atto pratico, la diversità è dinamica. Anche perché mio figlio ha avuto tante esperienze che magari altri non hanno avuto, pensi che lui va a far fare la pet therapy con le asine. Con le asine. Ragazzi che ne hanno bisogno. Quindi lui praticamente è educatore di altri ragazzi con problemi. Bravo. Ma esatto. È la strada migliore, comunque. La strada... È una cosa stupenda. Lui porta gli altri ragazzi sull'asinello, li aiuta a stare contenti. Bravo. Adesso esatto, andiamo al punto, esatto. Però. Portiamo i problemi. Adesso andiamo al punto, qual è? Diventa un quadretto edificante. Allora, mio figlio, chiaramente, per muoversi, ha necessariamente bisogno di qualcuno che lo accompagna, abbia la macchina che l'accompagni. Perché per quanto sia autonomo, non può guidare, questo è poco. Ovviamente, possibile. Come diceva l'altro signore, lasciamo perdere tanti anni fa, che cosa non abbiamo passato per averlo questo benedetto tagliato. Lo sappiamo benissimo, bisogna andare col macete fra i denti. Mio figlio ha 18 anni, devo ricominciare di nuovo a richiedere i permessi perché, per dimostrare che non è guarito dall'autismo. Dai, andiamo avanti. Esatto, lasciamo perdere, solo vogliamo. Ma qual è il grosso problema? È che malgrado il tagliando, lei praticamente ogni volta che si muove da casa e va in qualche comune diverso da quello in cui abita, dovrebbe telefonare, anzi deve telefonare al comune per avvisare: guardi, sta arrivando il mostro con la macchina XY, ok? Per cui se io non sono a casa, ad esempio, e fa qualche amico per portare... Lei, diciamo, presta la sua macchina dotata di permesso all'amico di buona volontà che accompagna suo figlio. No, il permesso non è alla macchina, il problema è, cioè, è chiaro che è dichiarata la mia macchina, ma Pasquale si porta il suo tagliando dietro, perché è il suo, perché per andare a parcheggiare, per fare quello che serve e così via. Il problema qual è? Che la macchina non ha una targa registrata, quindi se entra in una... Esatto. Fanno la multa. Qual è il problema? Prima di tutto, io sono registrata a Milano, ok? Però se volessi andare con la macchina e non con un treno, con un aereo... A Bergamo facciamo... A fare un viaggio a Bergamo, piuttosto che ne so io, a Terni, piuttosto che a Taranto... Le possono fare la multa, o se entra in una ZL... Ma la fanno sicuro! Sì, le fanno la multa. Fanno sicuro, tranquillo, non solo, perché lei dovrebbe conoscere... E lei come fa a non farsi fare la multa? Oggi cosa dovrebbe fare? Io purtroppo non posso fare un cappero per non farmela fare. Beh, dovrebbe telefonare ai vigili, dire: entro con il permesso con questa macchina, i vigili dovrebbero registrare. Esatto. Secondo lei però, mi scusi, secondo tutti, e io sono qui ad braccia aperte se mi date un consiglio, come si fa a conoscere i numeri di telefono di tutti i comuni che le può capitare? Sì, poi guardi, lo so perché conosco l'esperienza. Provi a telefonare. Perfetto. Entrando a Montecatini Terme, dico una cosa stupida qualsiasi: cercare i vigili, chiamarli, spiegargli, molte volte non hanno il sistema. Insomma, c'è una difficoltà in più. Se vogliamo che, no, se vogliamo che la persona disabile abbia lo stesso diritto di libera circolazione nel territorio e di avere le garanzie che derivano al suo stato, cioè di avere un parcheggio, di entrare in una ZL, tutte queste cose qua, dobbiamo creare un sistema per cui non debba ogni volta fermarsi con il cellulare fuori del confine del comune in cui entra e cercare disperatamente un contatto. Resti in ascolto, Maria Cristina. Abbiamo un esperto che può in qualche maniera darci qualche idea. Ingegner Enrico Pagliari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'ingegnere Enrico Pagliari, coordinatore dell'area tecnica dell'ACI. L'ACI, ci siamo informati, sta già lavorando su questa materia, è consapevole che esiste un problema e ci stanno lavorando. Vediamo se l'ingegnere Enrico Pagliari ci dice come stanno affrontando questo tipo di problema, che è un problema oggettivamente importante. Sì, diciamo, ci siamo fatti un'idea e stiamo mettendo a punto un progetto che vorremmo mettere a disposizione di tutti. Sostanzialmente qual è? Quella di creare una sorta di white list, una lista di veicoli speciali per disabili che siamo in grado di fare in tempi brevi. Guardi, non vorrei esagerare, ma in mezza giornata di lavoro probabilmente riusciamo a tirarla fuori. Dai nostri archivi del pubblico registro saremmo in grado di tirar fuori questa lista di veicoli che hanno usufruito delle agevolazioni concesse ai veicoli a servizio dei disabili. Cioè quelli che hanno comprato un'automobile pagando con l'IVA al 4%. Con l'IVA ridotto e tutte le altre agevolazioni. È già una buona fetta di persone, sono già quelle che comunque... Ma guardi, i nostri esperti di archivi, di database, parlano che sostanzialmente stiamo su tre quarti, 70-80% delle auto che vengono utilizzate dai disabili, quindi ne prendiamo una grossa fetta sostanzialmente. E quelli che sono fuori, le faccio un esempio banalissimo: io ho comprato l'automobile prima ancora di avere il permesso per mio figlio, quindi non ho avuto questo. Come potrei entrare in questa lista? Segnalare che in teoria ho io altre persone che hanno questo problema, che ancora non hanno, diciamo che è esaurire questa lista. Ma noi diamo la disponibilità, ecco, se poi parliamo dei problemi che ci sono per essere autorizzati a fare queste cose. Cioè, una volta fatta questa lista, noi siamo a disposizione per mettere un, sarà un l'interesse, link, sarà... mail, un numero di telefono. Perfetto. Per mettere altri veicoli, altri target, perché per esempio sappiamo bene, prima parlavate di zona a traffico limitato, a Roma vengono autorizzate 3 targhe sostanzialmente. Sì. Ecco, quindi potremmo anche avere tutte queste diciamo la buona volontà di cominciare a creare il database. Il database integrabile, sarà interesse dei disabili di fornire le loro tag. Ecco, una volta fatto cosa succede? Una volta fatto noi lo metteremo a disposizione di tutte le polizie locali o delle amministrazioni locali che necessitano di queste liste, perché magari hanno degli accessi limitati, hanno delle regole, diciamo delle regolamentazioni di traffico che necessitano di controlli magari mediante varco elettronico per accedere a certe aree, a certe strade delle città. E quindi semplicemente consultando questa lista che mettiamo a disposizione sarebbero in grado in tempo reale di capire se quel veicolo che è transitato per esempio sotto un varco elettronico è abilitato o meno. Ma ingegnere, per capire meglio, alla fine cosa sarà? Un'app disponibile per le famiglie con cui si possa interagire con il database? Sì, sì, sì. Adesso noi come filosofia stiamo facendo un'unica app di ACI dove mettiamo tutti i servizi che mettiamo a disposizione degli automobilisti e sicuramente saremo in grado di mettere anche questa diciamo questa peculiarità, questa possibilità di registrarsi o di far parte di questa lista. Questa è un'ottima notizia, ingegnere. Innanzitutto siamo contenti di essere i primi a raccontare che l'ACI sta lavorando concretamente, ma in maniera moderna, reale e certo, realistica, a risolvere un problema che sembra un problema piccolo, ma un problema a volte insormontabile. Vuol dire rinunciare per un ragazzo con disabilità magari ad andare a passare un pomeriggio con gli amici nella città vicina, è una cosa, o una famiglia di fare un viaggio, o rinunciare a fare una vacanza. Quali sono gli ostacoli, se possiamo aiutarvi in qualche maniera ad appianarli? Allora, cosa si frappone fra voi e la realizzazione? Sono ovviamente, sappiamo, noi siamo, io dico, siamo un paese borbonico che ci irretiamo di regole. C'è un problema ovviamente di privacy, quindi questa iniziativa va autorizzata per legge. Non è che. Allora fermiamoci un istante, questo... ingegnere, siccome entriamo in un tema delicato, le darò poi io quello che possiamo fare, glielo dirò. Prendiamo solo un attimo di pausa perché dobbiamo dare le notizie della borsa, poi riprendiamo con la questione della privacy, che ho un'idea. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Vi presenta Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, stiamo toccando un problema delicato ma allo stesso tempo con una possibile via di soluzione, a meno se noi pensiamo che con la buona volontà si possano ottenere le cose. Abbiamo portato il problema di una nostra ascoltatrice che è un ragazzo adulto con disabilità che è perfettamente autonomo, se non che deve essere accompagnato in macchina naturalmente dai suoi amici, e quando va a fare un viaggio fuori dalla sua città deve ogni volta avvertire i vigili per poter entrare nelle aree protette o parcheggiare. Siamo in contatto con un ingegnere coordinatore dell'area tecnica dell'ACI, dice che l'ACI ha al suo studio un sistema che troviamo fantastico, un database di tutte le automobili registrate o acquistate come auto per i disabili, che potranno essere messo in contatto con le amministrazioni dei comuni d'Italia, così automaticamente attraverso un'app potrà essere segnalato l'ingresso e quindi la targa annoverata tra quelle possono tranquillamente circolare. Prima di ridare voce all'ingegnere Enrico Pagliari, che è il coordinatore dell'area tecnica dell'ACI, che sta lavorando a questo progetto e ci dirà quali sono le loro difficoltà perché possa andare avanti, per quanto possibile cercheremo poi di, usando la nostra radio, di mettere le persone a un tavolo e ragionarci. Voglio ascoltare due persone, ci hanno chiamato dimostrando che il problema esiste realmente. Gianni, buongiorno. Gianni è caduto. Allora Giovanna, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora io volevo portare la mia esperienza, perché ho avuto esattamente lo stesso problema col Comune di Roma. Ho una sorella disabile, è venuta a trovarmi, ovviamente ha preso l'aereo, quindi non si è potuta portare la sua macchina e il tagliandino io l'ho messo sulla mia macchina, perché ovviamente doveva girare per Roma. Chiaramente mi ma il tagliandino non serve a niente, è la targa registrata. Esatto, esattamente. Io non ho registrato la targa, va bene, non lo sapevo, non ho chiamato il comune. L'hanno multata a sangue, naturalmente. Allora, mi hanno mandato ben 8 multe. Ma c'hanno ragione. Sì, però che cosa ho fatto io? Io ho trovato una sentenza della Corte di Cassazione che diciamo, aveva evidenziato questo problema, quindi la difficoltà ovviamente, perché poi pensiamo un attimo, se da Roma, io devo passare da Roma a Marino, a Riccio, a Frascati, che sono tutti comuni diversi, ma tutti assolutamente vicini, come si fa? Insomma, in conclusione, guardi, io su questa sentenza ho fatto causa, il giudice di pace mi ha dato ragione. E le hanno tolto le multe. E mi hanno completamente tolto le multe. Sì, però si rende conto di una cosa, che non è che ogni volta uno può far causa e ottenere magari ragione. L'iniziativa dell'ACI mi sembra che razionalizzi questo. È un problema di difficile soluzione. Poi c'è anche da considerare quanti su questo, ahimè, a nostre spese ci marcino, con un tagliando di una zia schiattata ci vanno avanti per altri 20 anni tutta la famiglia, parcheggiando in centro, andando in centro, che sono delle cose più schifose che dobbiamo anche sorbirci il sospetto di voler fregare qualcuno. Nel caso della sua amica, purtroppo, ahimè, sono macchine elettroniche che rilevano l'entrata nel centro storico, non possono che registrare una targa non propria. Quello che si può fare è, se riusciamo in qualche maniera ad aiutare l'ACI a portare questo progetto in porto, quando ci sarà un database di tutte le possibili targhe d'Italia che corrispondono comunque a una persona portatrice di disabilità, sarà molto più facile. Vediamo, c'è Gianni, c'è tornato? Sì, ci sono. Gianni. Devo dire, io sono un disabile, ho permesso su Milano, però mi capita frequentemente di andare in giro in altre città. Io me la cavo in questo modo, ma potrebbe essere diffuso il meccanismo. A posteriori chiamo il comune, mi faccio dare un indirizzo email dei vigili del... Cioè prima, no? A posteriori, lo fa prima? No, non lo faccio a posteriori, dopo... perché farlo prima non so in viaggio se andrò in una città piuttosto che in un'altra. Quindi mi cerco l'indirizzo email, chiamo, mando la documentazione, quindi carta d'identità, permesso, e a questo punto la multa mi viene tolta. Capisco che ha un costo per l'amministrazione, ma preventivamente, se io decido di cambiare rotta e vado in un'altra città, diventa un problema. Lei dice metto le mani avanti, dico, se nel caso vi fosse registrato che questa macchina ha compiuto delle infrazioni, vi dico in anticipo che sono un disabile, ho la macchina e tutto via dicendo. Finora ha funzionato questa cosa? Per me sì, ma forse non mi sono spiegato bene. Io qua ricevo la multa. Quando ricevo la multa... Contesta la multa. Non la contesto, spiego che sono disabile e ho diritto ad entrare, punto. Certo, e finora diciamo le è andata sempre bene, nel senso non hanno mai contestato questa cosa. No, sempre, ma in città diverse, Torino piuttosto che Genova, piuttosto che altre città dove c'è la ZTL, non mi hanno mai fatto obiezioni. Oddio, c'è da dire che... È sempre, diciamo, un escamotage, non è proprio la maniera più semplice per risolvere il problema. Sarebbe molto più semplice, come abbiamo detto noi, avere possibilità di avere la targa comunque automaticamente inserita in un database, e che probabilmente basterebbe segnalare con l'app sto per entrare, loro già lo sanno e via dicendo. Sentiamo allora l'ingegner Enrico Pagliari, le ho dato un'altra dimostrazione che in realtà state lavorando giusto nella parte giusta del problema. Ci eravamo detti, quali potrebbero essere le maniere in cui potremmo come radio velocizzare questo processo che mi sembra fondamentale? Ma ecco, sicuramente questo aspetto di essere autorizzati a livello parlamentare a fare questa attività, noi già stiamo facendo azioni, mi passa il termine, di lobby con i parlamentari per far sì che questo provvedimento passi, perché ecco, per rendere pubblica, tra virgolette, questa lista c'è questa necessità. Non possiamo... Ma è un problema farlo. Cosa? Di tutela della privacy o di proprio di legge che... Di dati del pubblico registro automobilistico per usi diversi da quello che attualmente riconosce il codice della strada. Allora guardi, ingegnere, se lei dopo ci sentiremo finita la trasmissione, ci dà un'idea di chi potrebbe essere possibili interlocutori. Noi siamo ben disposti a fare una trasmissione apposta in cui ci sarà l'ACI. Ci sarà, se serve, il garante della privacy, che è una persona che conosciamo, abbiamo spesso chiamato, perché penso che il garante della privacy vorrà sapere esattamente di cosa si tratta e vi darà una risposta. Dirà, ci vuole un'informativa esatta sull'uso che fate di questi dati. L'utente deve essere informato. Una volta che è informato esattamente di qual è il percorso di questi dati, è un servizio nel suo interesse. Poi ci dirà dal punto di vista istituzionale chi sono le persone che di questo si devono occupare. Quindi sarà nostra cura di aiutarvi a fare qualcosa che mi sembra che risolva un problema che sembra infinitesimamente piccolo rispetto ai grandi problemi, ma è un problema enorme. Grazie, ingegner Pagliari. Maria Cristiana, che ha sollevato il problema, è in parte soddisfatta. Sì, aggiunga pure, certo. Ecco, l'ha sollevato lei. Io volevo soltanto aggiungere una cosa, che tutto questo è stupendo e avrà tutto il mio appoggio, ovviamente, oltretutto perché è la prima volta che finalmente sentiamo qualche cosa, però ovviamente è limitato al fatto del soggetto disabile che gira con la sua macchina. Tenete conto che i comuni, sarò velocissima, i comuni hanno le telecamere che prendono le targhe macchine che entrano dal posteriore. Il tagliando invece deve essere posizionato sul cruscotto anteriore. Basterebbe creare un tagliando di qualsiasi tipo che possa essere applicato sulla macchina nei pressi o sull'1-8 o vicino alla tappa, in modo che in automatico la cinepresa prenda tutte e due le cose. Ecco, questo mi sembrerebbe abbastanza automatico, veloce, e che in qualche modo forse migliorerebbe, diminuirebbe anche il lavoro individuale dei vari sì, intravedo solo un piccolo problema. Io mi accontenterei intanto di fare la prima parte, onestamente le dico veramente sulla mia pelle. Ci sarebbe il problema che poi ogni tagliando sarebbe un libero accesso comunque a tutti i servizi del disabile, e onestamente già è difficile adesso avere tagliandi che girano e chiunque possa avere il tagliando, se lo mette sulla macchina e entra dove vuole. Mi sembra chiedere un po' tanto, non so se l'ingegner Pagliari è d'accordo. Ah, lì ci sarebbe un problema di tecnologie, perché purtroppo non c'è ancora uno standard univoco, ancorché l'Europa lo richieda, per esempio per i portali. Quindi per leggere tutti, per leggere addirittura per il tagliando. Per leggere tutti. Ma c'è già, diciamo, un qualcosa che si legge nei nuovi tagliandi europei, quelli azzurri? Sì, la normativa dice quello. Cioè, loro già sono possibili europeo, a dare segnali, loro potrebbero essere letti. Lo sa che non c'è un'uniformità di portali, come quindi al solito. Sono sicuro che in Italia sicuramente c'è quel portale che stona, nel senso che non riesce a riconoscere qualcosa. Abbiamo le pubbliche amministrazioni che non comunicano tra loro, siamo l'Italia dei comuni. Nemmeno sugli archivi, figuriamoci sui lettori di portali. Comunque grazie intanto all'ingegnere Enrico Pagliari dell'ACI, aspettiamo una sua comunicazione più dettagliata per aprire il problema in una trasmissione in cui avremo tutte le parti, capiremo qual è veramente il punto che rende insuperabile un problema di razionalizzazione di un problema. Ci sentiamo tra un istante? Sì, va bene. Melog. Cronache meridiane. Sono una persona gravemente disabile, sono non vedente e non ho l'uso delle gambe e mi stanno mancando anche le braccia. Ho la sclerosi multipla, ma una forma molto seria, diciamo, difficile. Allora, sì, io sto trovando diverse difficoltà, per esempio negli alberghi mancano i sollevatori e quindi se si va in un albergo, in realtà non si, almeno di che sappia io, non si ha la possibilità di essere messi dalla sedia a rotelle a letto. Sembra da poco, ma significa portarsi dietro badante anche un'altra persona, oppure anche per chi è normodotato significa spezzarsi la schiena per metterci a letto. Per il resto, purtroppo, ripeto, sono ammalata da quando avevo 29 anni, ne ho 56, mi ero laureata in farmacia, mi è cambiata la vita, sono stata abbandonata, quindi i problemi di socializzazione, di affettività sono tanti, ne possiamo parlare quando volete, non è credo utile il mio diploma in pubbliche relazioni. Però questo è l'audio messaggio che ci ha mandato Anna, una donna con la sclerosi multipla, che anche lei pone un problema di tipo tecnologico. Guardate quanto la tecnologia, la reietta è demonizzata tecnologia, però in realtà nei campi in cui ci sono delle persone che hanno comunque delle necessità di essere aiutate, supplite, possa entrare in campo. Nel primo caso la tecnologia informatica, allo stesso tempo legata alla possibilità di controllo di tutti gli stalli, di tutte le automobili con il permesso, aiuterebbe le persone a avere una vita meno reclusa. In questo caso una signora con la sclerosi dice: se tutti gli alberghi fossero dotati di quel sollevatore, per noi sarebbe un sollievo, anche perché non dovremmo sempre portarci dietro una persona che ci aiuta. Anna, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti, è un piacere sentirvi e poter parlare. Si sente sollevata a sentirmi? Molto. Potreste, sì, mi state facendo da sollevatore, come se stessi in vacanza. Non riesco a metterla a letto, però almeno in qualche maniera la sollevo. Ma molto, molto, ma l'ho fatto sempre, io sono un'ascoltatrice di Radio 24. Andiamo al punto, ci spieghi esattamente cos'è il sollevatore, quanto costa, sì, chi ce l'ha, chi non ce l'ha e cosa sarebbe il meglio per lei? Allora, sì, a me è stato fornito dalla ASL, quindi ce l'ho in casa. Ma com'è fatto il sollevatore? Cos'è, una specie di piccola gru? Come funziona? Sì, è una piccola gru. E cos'è, elettrica, a mano? Come funziona? Allora, ce ne sono vari tipi. Il mio è manuale. Ah, lei da sola a girare la manovella e autosollevarsi, come fa? Infatti, no, sempre la badante fa tutto, perché io più... Comunque serve sempre una persona che l'aiuta, da sola non c'è. Sì, sì, sì, sì. Ci vuole sempre la persona, però in pratica è un aiuto... sia la sicurezza, perché viene messo in una rete di questa gru e quindi, insomma, non dovreste... Beh, riesce a prepassare dalla sedia al letto in maniera più tranquilla e più sicura, questo è fatto, sì, no? Infatti. E l'aiuta la signora, l'aiuta a fare questa operazione. Sì, mi aiuta e poi appunto siamo lì, non si spezza la schiena. In questi anni ho avuto il piacere di conoscere una marea di volontari, marea che sono tanti, quelli per esempio del Centro Volontari della Sofferenza, il Centro Volontari della Sofferenza che poi sono i volontari che portano a Lourdes spesso, e hanno portato anche me, ma mi hanno preso in braccio, cioè nel senso, ci sono state le occasioni in cui per esempio ci potrebbero essere dei sollevatori da viaggio. Ma esistono, aiutare. La tecnologia esiste, questi sollevatori da viaggio, che lei sappia, sono ignorante. Una mia amica si è fatta una ricerca in internet, aveva trovato una cosa strana che si applicava alle portiere dell'auto. Sì, però deve essere delle tecnologie riconosciute, testate e sicure. Limitiamoci a quello che esiste, che lei conosce. Diciamo, allora, esistono, a parte Lourdes, che è chiaro... Se lei volesse fare, senza andare sempre a parlare di chiedere grazie, farsi un bel viaggio di divertimento e di piacere, parliando di cose concrete, e volesse andare in albergo, cosa deve fare? Lei decide, voglio andare sulla Costa Azzurra, facciamo con un mio amico, cosa deve fare? Le pongo questa ipotesi esaltante, così mi spiego. Lei cosa dovrebbe fare? Allora, innanzitutto mi devo cercare di rifornire di un'auto sulla quale io posso salire con tutta la sedia a rotelle, perché non tutte, quindi con pedana. L'auto pedana te la devi far prestare, perché spesso l'amico ha l'auto normale, e questa è la prima. Poi ci mettiamo in macchina, arriviamo lì, se ci fermiamo prima conosco il problema del tagliando, e quindi poi ammettendo, insomma, si arriva in Costa Azzurra, si arriva in albergo. Le barriere architettoniche in genere sono tutte abbattute. Lei cosa fa? Deve telefonare prima e dire: guarda, arriverò con la sedia a ruote, dovete sapere che ho questo problema. Appunto. Chiama prima. Allora, purtroppo anche l'utilizzo del bagno, non sono non vedente, come ho detto, ma ho anche problemi motori. Sì, però mettiamo che la base delle barriere architettoniche, gli alberghi migliori l'abbiano superata, quindi c'è il bagno adatto, cosa le manca però? Le mancherebbe questo... E ho trovato anche sempre molta sensibilità, molta gentilezza. Ma di solito sì, funziona così, di solito è difficile, anche perché rischiano molto, lo sanno. Oggi le informazioni circolano velocemente. Ecco, penso infatti che non ci sia normativa rispetto al sollevatore. E però mi parli, lei chiede, avete un sollevatore? Domanda. L'ho fatto e mi è stato risposto no. Che il sollevatore c'è, ho parlato con i volontari, ho parlato con gli alberghi e mi hanno detto che in generale il sollevatore è possibile nelle strutture sanitarie. O casa ospedale, non può andare a godersi la vita in albergo, ma dove sta scritto? Tenga conto che io ho sempre molto viaggiato, quindi mi sta mancando moltissimo. Senta, quanto costa un sollevatore mediamente, di quelli più semplici? Mi posso sbagliare, perché a me l'hanno dato, penso sui 900 euro. Sì, ma se l'ha preso tramite le ASL, l'ha pagato tre volte quello che costa sul mercato, quindi costerà 300 euro se l'ha pagato 900 l'ASL. Ah, no, 900 è il prezzo nel negozio, sì, che mi dissero, perché e l'ASL quanto l'ha pagato? La ASL me l'ha dato così, per fortuna. Sì, sì. Me l'ha dato senza pagare niente. Perché di solito, diciamo, tutti questi oggetti, questi presidi, costano tre volte tanto quando passano, sì, per l'ASL. Uno, sì, non si chiede mai perché, ma è così. Quindi, no, diciamo, tutto sommato, però, un albergo, quanti gliene potranno mai capitare di persone che hanno bisogno del sollevatore? Appunto. Dotarsi di un sollevatore è come dotarsi dell'estintore, avrebbe un oggetto utile a fornire alla clientela. Quindi quello che lancia lei come appello, vediamo se qualche organizzazione, federazione, associazione di albergatori ci risponde. Faccia la sua domanda precisa: perché non dite a tutti i vostri associati, se comprano un sollevatore, mettete in internet "siamo dotati di sollevatore" e tutte le persone come lei sarebbero facilitate nell'andare in quell'albergo? Anche perché, ripeto, posso farmi accompagnare da una persona e non da due, perché insomma è anche rischioso. Metta una settimana di vacanza. Lei già si porta il suo amico, le portasse anche la badante, è assurdo, no? No, vabbè, ma guardi che è la realtà, purtroppo è la realtà, perché come si fa? Cioè, per una settimana alzarmi e mettermi a letto due volte al giorno almeno significa veramente spezzarsi la schiena. E guardi, dottor Nicoletti, ci sono i volontari che lo fanno con tanto piacere. Guardi, sono persone che io ho apprezzato. Sì, però Anna, non possa sempre pensare che i problemi li risolvono i volontari. No, si guadagneranno il paradiso sicuramente, o la massima stima. Sì. Ma gli alberghi, che hanno di tutto, fra un po' sicuramente è giusto, danno dotazioni con vibratori, preservativi, quello che uno vuole per la soddisfazione del cliente. Un sollevatorino non è che gli costerebbe poi tanto, per far contenti anche voi. È vero, no, ma poi si figuri, ma per loro poi, essendo un'azienda, il costo del sollevatore è scaricato in altro modo. Pagherebbero l'IVA agevolata, oppure costerebbe poco. Ma poi fa ridere, dicevo, un sollevatore in un grande albergo in fondo non è che rappresenta un costo, ma significa nelle iconcine accanto a tutti i servizi, c'è scritto doccia, sauna, massaggi e via dicendo, infatti. C'è il disegno del sollevatore, per lei sarebbe una grande risorsa. Infatti. Ma noi aspettiamo, visto questa trasmissione ascoltata, che ci risponda qualcuno che gestisce alberghi o catene di alberghi dicendo: io oggi mi compro il sollevatore, faccio questo investimento e voglio dire a tutte le persone che ne hanno bisogno che perlomeno nel mio albergo c'è il sollevatore. Quindi potrete venire in vacanza, potete venire per piacere, per turismo, per cultura, portarvi l'amico, l'amica, chi volete, e non è necessario che venga anche il facchino, il badante che vi aiuti a salire a letto e scendere dal letto. Grazie Anna, vediamo se riusciamo a darvi una buona risposta. Alla prossima!